Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 56. Rosalba. Letto da Luca Brasi. Venne il giorno del funerale. Quella mattina, quasi a rendere più cupa l'aria già greve, mio padre ebbe l'infelice idea di aprire un vecchio album di famiglia. Pagine ingiallite, che custodivano sorrisi dimenticati, istantanee di uno zio ancora vivo, allegro, circondato da fratelli e nipoti. Zio Alfonso Capone era il marito della sorella minore di mio padre. Il suo nome evocava il celebre gangster di Chicago, ma in lui non c'era ombra di violenza, solo gentilezza, un cuore mite e una bontà disarmante. Non aveva ancora compiuto 60 anni quando la malattia, implacabile, lo colpì. Fu lui, quando ero bambino, a regalarmi un libro. 200 pagine di avventure nel Far West, un dono prezioso che ancora oggi veglia nella mia piccola biblioteca come un talismano d'infanzia. Il 13 luglio 1980, una mattina calda e afosa, io e la mia famiglia ci mettemmo in viaggio verso Capaccio, dove avrebbero avuto luogo le esequie. La provinciale, che da Battipaglia scende alla Piana del Sele e alla costa, era ingombra di veicoli. Camion carichi di mercanzie per il mercato, furgoni ansimanti, auto ricolme di famiglie e vecchi mezzi che trasportavano braccianti e immigrati nordafricani verso i campi arroventati, a raccogliere pomodori e frutta, come un tempo fecero i miei genitori e i genitori di Matteo, prima di lasciare il sud. Eravamo in cinque, compressi come sardine nella piccola Fiat 127 di zio Giuseppe, quando giungemmo infine al rione Pescara, un quartiere di case popolari dove da qualche anno viveva lo zio con la sua famiglia. Da lì sarebbe partito il corteo funebre. Tutti i parenti e gli amici erano raccolti intorno alla bara, il dolore già palpabile come una nube pesante. Salutai zii e conoscenti che non vedevo da anni, ma mi tenni distante dal legno funebre. Non volevo imprimere nella memoria quella triste immagine. Preferii evocare lo zio vivo, le lunghe partite a carte e a dama, in cui la sua abilità era proverbiale, le risate, le ore serene. Era così che volevo ricordarlo, un uomo buono, gentile e sorridente. Un'ora dopo il nostro arrivo a Capaccio, si levò il lamento funebre. Un coro di voci spezzate, grida e pianti laceranti che si propagavano come un'onda, così potenti da farsi sentire a un miglio di distanza. Le stanze basse della casa di zia Rita divennero presto una camera satura di dolore, un'aria greve che mozzava il respiro. Quando altre donne del vicinato si unirono al pianto, compresi che era meglio cambiare aria. Uscii per cercare ossigeno, o almeno un po' di pace. Fu allora che la vidi. Appena oltre la soglia, in un lembo di luce, c'era una ragazza dal volto familiare. Rosalba. La riconobbi subito. I capelli lunghi e ondulati, neri come le penne di un corvo, e quegli occhi verdi, luminosi, che parevano custodire antichi segreti. Non la vedevo da molti anni, almeno 7. L'ultima volta era stato a Carbonara, sulle montagne di Giffoni, durante un picnic di famiglia. Eravamo poco più che ragazzi, io ero ospite occasionale. Lei una ragazzina vispa, intelligente, con un portamento che la distingueva dalle altre ragazze della sua età. Ora, 7 anni più tardi, me la ritrovavo davanti, trasformata. Nessuna traccia restava della ragazzina paffuta e foruncolosa di un tempo. Al suo posto c'era una giovane donna dalla bellezza disarmante, alta e slanciata. I jeans che ne disegnavano le forme, la maglietta rosa che stentava a contenerne il corpo sbocciato. Mi sorpresi a osservarla con fin troppa insistenza, tanto da provare un po' di imbarazzo quando lei voltò lo sguardo verso di me e finalmente mi notò. Il legame tra me e Rosalba era stato tutt'altro che semplice. Lei era cugina di Matteo da parte di madre e in famiglia la nostra amicizia non era ben vista. Eppure, già dal nostro primo incontro, intuii che con lei sarebbe potuto nascere qualcosa di bello. Al mio ritorno nel nord Italia, dopo le vacanze dell'estate 1973, le avevo scritto molte lettere. Lei aveva risposto a qualcuna, poi più nulla. All'inizio il suo silenzio mi indispettì. Per mesi mi chiesi perché avesse smesso di scrivermi. Poi me ne feci una ragione. Quando me la ritrovai di fronte, sentii un brivido lungo la schiena. Decisi che questa volta non me la sarei fatta sfuggire. Mi avvicinai con passo incerto e le dissi: «Ciao, ti ricordi di me?» «Certo», rispose con un sorriso lieve. «Sei Mauro, di Milano. Ti ho riconosciuto subito». «Non pensavo di trovarti qui. È passato tanto tempo, ricordi?» «Sì, mi ricordo bene. Di te, di noi, dei giochi in spiaggia, delle tue lettere. E ricordo persino quando mio padre ti rifilò 2 ceffoni». Arrossii. Alludi a quella volta in cui raccontai una barzelletta un po' audace davanti a lui? Sì, ero un ragazzino ingenuo, forse anche un po' cretino. Lei rise. «Al contrario, fu divertente. Ripenso a quegli anni con nostalgia. Eri buffo, irruento, ma lo eravamo tutti. Dimmi, che ne è di Matteo? Eravate molto amici tu e lui?» «Non so più nulla di lui. È come svanito». «In famiglia siamo tutti preoccupati per lui. Spero stia bene». «Lo spero anch'io. Questo silenzio mi angoscia. Se gli fosse accaduto qualcosa, non lo sopporterei. Sai, siamo amici sin dall'infanzia. Per me lui è come un fratello. Ma dimmi di te, perché hai smesso di scrivermi?» Il suo volto si trasformò. «Ti chiedo scusa. Sono successe cose brutte, cose intime, che non posso dirti. Comunque non ora, non qui. Mi fa male anche solo pensarci». Tacque un istante, poi aggiunse: «Mi dispiace ritrovarci in un'occasione così triste. Volevo molto bene allo zio Alfonso». Da lontano, una voce la chiamò. Rosalba si voltò, esitò un attimo, poi sussurrò: «Devo andare, ma chiamami, così ci rivediamo». E si allontanò, lasciandomi con il cuore sospeso tra la gioia di averla rivista e l'incertezza di un fragile futuro. L'oscuro segreto di Rosalba. Rosalba era diventata ancora più bella dall'ultima volta che ci eravamo visti. Eppure, nei suoi grandi occhi neri, scorgevo un velo di tristezza che prima non c'era. Mi domandai che cosa potesse averle strappato via la leggerezza di un tempo, trasformando quella ragazza allegra e piena di vita in un'anima ansiosa, quasi in fuga da se stessa. Dovevo capire. Non potevo restare indifferente. Salimmo insieme le scale che portavano al secondo piano, dove era stata allestita la camera ardente. Ma all'improvviso la vidi sobbalzare e correre via. La chiamai, ma lei mi ignorò. La raggiunsi fuori, dove l'aria sembrava un po' meno opprimente. «Rosalba, dove vai? Aspettami. Si può sapere cosa ti è preso?» «Lasciami stare, ti prego. Ho bisogno di restare un po' sola.» «Non capisco. Hai forse visto qualcuno lì dentro che ti ha sconvolta?» «Ti ripeto, preferisco non parlarne. Ora devo andare. Telefonami prima di tornare a Milano.» «A Milano non tornerò per un bel po'.» «In che senso?» «Nel senso che ho deciso di fermarmi qui per un po' di tempo. Ancora non so quanto. Sai, anche a me sono successe cose brutte.» «Cose brutte? Quali?» «Ti ricordi di Enrica, la ragazza con cui suonavo e di cui ti parlai in una delle mie ultime lettere?» «Sì, vagamente. Che cosa le è successo?» «È sparita. E qualche mese dopo l'hanno trovata morta.» «Oh mio Dio, ma era la tua ragazza?» «Sì, lo è stata per un po'. Poi se n'è andata con un balordo. È finita nel giro della droga. Ha cominciato a bucarsi. Un'overdose l'ha uccisa.» «Che orrore! Mi dispiace tanto. Deve essere stato terribile per te.» «Lo è stato. Ho vissuto mesi di incubo. Ma ora è finita. Sono qui con te. È di te che mi preoccupo. Ti vedo angosciata.» «Non ha niente. Passerà. Comunque tu non c'entri. Sta tranquillo. Anzi, sono contenta che tu sia qui. Ho pensato molto a te. Mi sei mancato. Ora però devo andare.» Mi sfiorò la guancia con un bacio. Poi svanì di nuovo, lasciandomi confuso e turbato. La sera stessa, io e la mia famiglia eravamo a casa di zio Giuseppe, a Battipaglia. Raccontai a mia madre dell'incontro con Rosalba al funerale. Appena pronunciai il suo nome, vidi mia madre irrigidirsi. «L'hai incontrata?» disse quasi spazientita. «Sì, l'ho trovata cambiata, preoccupata. Che le è successo?» Mia madre esitò un istante, poi sospirò. «Non volevo dirtelo, per non ferirti. Ma è successa una cosa molto brutta, anzi imbarazzante. Pare che zio Gennarino, te lo ricordi? Quello di Montecorvino. Dicevo, pare che l'anno scorso abbia tentato di abusare di lei. Rosabba l'ho denunciato. Lui ha passato qualche giorno in carcere, poi la voce si è sparsa in famiglia. Da allora Rosalba si è chiusa in se stessa.» «Ma com'è possibile?» «È stata una vergogna per tutti. Certo, tuo zio nega tutto, ma ormai le famiglie non si parlano più. Mi dispiace tanto per Rosalba e per mia cognata, ma non si può fingere che non sia successo nulla.» Mi sentii raggelare. «Allora è per questo che Rosalba ha smesso di scrivermi, che non è più venuta a Milano.» «Come sarebbe scrivervi? Tu e Rosalba vi scrivevate lettere d'amore?» replicò mia madre aggrottando le sopracciglia. «Di amore? Ma no! Chi ha parlato d'amore?» «Tu non me la conti giusta. Ti conosco bene io, delinquente. Perché non mi hai mai detto nulla?» Mm-hmm.